fuggi, fuggi, Cornelia, l'ingrato e crudo amore, che troppo è grande errore, verso un cieco conciunse l'atto e Dio, sì, a Dio. Conosci il tempo perso, per una finta secolma ti inganni, esci di servitù, esci d'affanni, non sta più sommerso. In gelosia sospettiste i miei pianti, che il fine cieco amanti, e in van pentirsi finirà.